a posto tutto, no, perché questo qui ero già qualche settimana senza accenderlo e non ci ho badato e c'era il pulsante abbassato. Sono andato lì stasera, sono andato lì a cosa che non stavo uscendo, ho controllato, avevo il test, ho controllato col test e la batteria e si era scaricata da sola. Buonasera. Buonasera Mario. Stamattina stavo modulando con quello, era bassa la modulazione. No, ero con un altro, a questo è quello a mobile, quello che è incorporato a 220, capito? L'alimentatore non ce l'ha, è tutto incorporato. Ce l'ha dentro l'apparato, ce l'ha da l'alimentatore. Con la 220. No, ce l'ho anche io così, ce l'ho. E due ce l'ho io, cioè, questo è il console primo, capito, che c'ha soltanto 23 canali, SSB e USB, l'altro è il Somerka, e l'orologio c'ha, no? Se voglio mettere la sveglia mi fa anche le suoneria, e l'altro è il Somerka, così il Somerka c'ha lo stesso suoneria, sveglia, 23 canali e 24 alfa. Chiara, io ci avevo un ricordo per un periodo che l'altro è compagno. Però un compagno non ci è andata bene, non è stata molto bene, ma io stavo provando a fare un cane di 3 eccetera. C'era il coso dell'orario, funzionava anche bene perché ho provato a mettere l'orario e andava. Va benissimo, va benissimo, io ce l'ho un sacco d'anni, ce l'ho più di 30 anni, ce l'ho, immagina, questi due che ti ho detto, non mi hanno dato mai nessun fastidio. Purtroppo adesso non li stanno più fabbricando, quelli da parte sono tutti disvincolari così. Va bene, quando l'accendo va bene, l'ho acceso anche l'altro giorno, l'ho fatto andare un bel po'. Va sempre bene, nonostante tutto che sia degli anni 70, va bene. Questo va bene, questo è nuovo nuovo. Avrà 6-7 mesi di vita, ci avrà da fare qui. Questo che sto parlando ora. Sì, basta gli accettare bene, capito, dai. No, come certe persone che aprono cercando l'uomo che parla dentro, capito. E, guarda, io gli apparati sono tanti anni di frequenza, già lo sai, ma se ho avuto qualche cosa di guasto, non sono andato a aprire, a cercare, a fare, perché ognuno ha già di sua, loro altre persone competenti sempre, e mi ha fatto una cosa come si deve. Questi due qui mi sono andati sempre bene, sempre, sempre, sempre. C'è una radio che ti dico, se lo dovessi sentire, rimane a bocca aperta, proprio bella. Sì. No, ma manco io, lui cacciavite non l'ho mai usato. A me, una lampadinetta, robe cataratte, ma a metterci mano, a toccare componente cosa, mai. Come le compro sono, non ci ho mai messo le mani, per quello che abbiamo sempre funzionato bene. C'ho un Migla, 40 canali, immagina che ce l'ho più di 35 anni, ce l'ho, da quando ero in servizio, capito? Aveva fatto scambio con uno di Pisa che vendeva mobili, capito? Un certo, tu non l'hai conosciuto, un certo, si chiamava un certo vagabondo di frequenza, no? Milano, Vagabondo si chiamava, il padre a Siena fabbricava mobili, qui per tutta la Sardegna aveva trovato un grande magazzino lì per andare a Reggeto, e per la Sardegna andava e vendeva lui. E a venire dunque con questo nigra gli ho dato, lui mi ha dato questo e io l'ho dato un coso, l'ho dato un altro apparato, capito? Dopo 10 giorni era venuto in banca e per baracchina sta andando bene, finisci la Mario, perché mi sono fermato lì vicino al mercato e me l'hanno fregato dopo 3 giorni che se l'aveva installato in macchina. Nessuno, perché non sanno, molta gente non sanno manco cosa è, meno male. Ehi, non ti credere, non ti fidare molto, magari, non voglio essere lingolungo, tu almeno mi capisci che non voglio esprimere molto, così che lasciamo stare che, guarda, se ti fidi, altro che quello te ne fregano. Un fatto, praticamente una persona gli hanno rubato lo stereo, il baracchino gliel'hanno tolto, gli hanno messo sopra il sedile, quello lì non gliel'hanno rubato proprio. Molta gente, cioè, ultimamente non sa neanche cosa è, cioè quando ti vede l'antenna ti guarda sotto una roba e comincia a chiederti, soprattutto quando uscirò la macchina, ma che cos'è quella roba? Cioè magari ho tutti gli anni papoliziotto, eccetera, stiamo arrivando a quelli belli lì. Tu, che metto a posto tutto, che ho un po' di pinze fuori, cose varie, magari vi sentiamo più tardi, grazie del controllo della chiacchieratina, alle prossimine, Antu. Ma si fa la cosa, ma qui c'è il palare, c'è senza bere salva fritta nel fare, no? È pur lunga, se non bere salva fritta non fa la salva casa. Hanno lavorato nel tuffato su Sicilia e San Maganza, in attacco sommersibile, andai su muro, mi mica da su scaldabagno. Ah, nessuno tu fa su scaldabagno, capace? A Baglia, non mica San Maganza, invece l'attacco a San Maganza, l'attacco a San Maganza. Doveva sommersibile da San Maganza, mi attacca a su muro, e a Baglia, che non si è tuffato di cui, ormai. Magari tende a prendere la fabbrica e fa la deriva su non dico ma quello che diciamo adesso come ho preso però grazie a mi sono un ferro a vivere si è tappato io capo così scusa che ho fatto a me quattro non pensi per noi sul piatto ho fatto con tua tua e non si vuole incantare cazzo è tutto più strano un macello è interessante il suo giovane è fatto a lui se vuole la sapagare tappare non di che non è andato sulle sibili non è un piccolo perritto tanto su lavorare che se fatto tutto questa pavrizza è lungo non più che la guerra inizia a punta mi sono scaldato a bagno questo bagaglio bascio non di che non va mi chiedo sacco che c'è anche tuo padre io Maria la signora di mio tuo padre non è così di sapere lui a guarda e lei può pagare così fatti grazie a fatti così per la bagaglio grazie a pagare la guarda centímetros, comprendo, ¿vale? applicano la repressione e fa la sabbagalla. Vinto sabbagrizio ti devo fare la sabbagalla. Dalle province di Bari, cambio. Sono la frequenza, ascoltate.